Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mano a mano che saliamo, il freddo aumenta e insieme adesso si incontrano nuvole basse che noi vedevamo come nebbia. Dapprima a banchi, poi uniforme, lattiginosa e grigia. A questo punto non si ride più. Riusciamo a vedere a pochi metri davanti e dietro. Sono Gianluca, 47 anni, biologo, vivo in provincia di Treviso. Perché i più esperti lo dicono sempre, cioè quelli che ne sanno di cose grosse della natura, che sostanzialmente sono il mare e la montagna, la prima cosa, la più semplice che ti dicono è: guarda che quando sei là, cioè quando sei a livello del mare sotto o sei su una montagna, il tempo può cambiare molto in fretta. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, sono le 16:09 in punto. Oggi raccontiamo, come sempre, una storia. Noi la facciamo tutti i giorni e vi invitiamo a continuare ad inviarcela. A voi siete qui, @radio24.it, un episodio che in qualche modo racconti qualche cosa di voi. Gianluca ha fatto esattamente questa cosa, cioè si è messo lì, ha preso il suo computerino, ha fatto andare le sue ditine e ci ha raccontato un pezzo di storia che lo riguardava, di quando era ragazzino. Non si capisce bene in che modo lo riguarda, forse per la paura che ha provato, forse per quel modo di affrontare le cose sbagliato, magari glielo chiedo più tardi, che sbagliato anche non per colpa loro, che lo ha portato in un luogo anche pericoloso e comunque difficile. 349-238-6666 è il numero per mandare gli sms se per caso vi è mai capitato di fare una gita in montagna un po' azzardata, di quella in cui parti e dici: ma figura, ma c'è il sole, ma va che roba, ma non metto gli scarponi, metto le scarpe da ginnastica, ma fino, non esageriamo. 349-238-6666. Paolo scrive un messaggio abbastanza lapidario: in montagna in infradito. Esattamente questo. 349-238-6666. Sul profilo Facebook invece Salvo scrive: Valle d'Aosta, inizia a piovere, io in camicia, inizia a nevicare, io in kiwi, sono sceso di corsa, fradicio di sudore nonostante i 3 gradi. 349-238-6666. Io facevo le scuole medie, ho fatto le scuole medie in una scuola di Novara. In seconda media ci portano a fare la settimana verde, che credo di aver sentito solo in quell'occasione. Era l'87-88, o sì, 87. Andiamo a fare la settimana verde al Parco Nazionale d'Abruzzo. L'idea è che vai a vedere il lupo, poi vedere il lupo non è così facile, no? Lo raccontavamo ieri citando Cormac McCarthy, è abbastanza complicato vedere un lupo. E infatti il lupo non lo vediamo, però con in testa il nostro capogita, cioè Don Renzo, anche conosciuto come Don Cilappa, perché gli si formava sempre la cilappina qui di fianco alle labbra quando parlava. Okay. C'è un politico a cui succede sempre. Quello figo, quello che è stato anche presidente del Senato, di centro, dai, quello bello, il George Clooney della politica italiana, presidente della Camera, Casini. Casini ogni tanto gli si crea un po' di così. Ecco Don Renzo. Don Renzo ci guida, andiamo ragazzi, scarpe da ginnastica, bermuda, era maggio e ovviamente incontriamo la neve, e quando incontri la neve cominci a capire che c'è qualcosa che non va. Una storia come questa, una gita azzardata in montagna. 349-238-6666. C'è qualcuno che mi chiede: c'è Mauro Ottolini? Io gli rispondo: ancora Mauro Ottolini non c'è, ma ci sarà, ma presto ci sarà. 349-238-6666. Mauro Ottolini e la sua musica ci sarà, ovviamente, più che Mauro Ottolini. Dalla settimana prossima, direi, giusto Tiziano? Da settimana prossima ci sarà Mauro Ottolini, le sue basi e la sua siriga. Adesso invece sentiamoci la storia di Gianluca. Eravamo ragazzi nell'83. Eravamo studenti dell'istituto tecnico. Solo quello eravamo. In una solita primavera, un insegnante fanatico se ne uscì con l'idea dell'anno. Informò tutte le classi, seconde e terze, che stavano organizzando una gita sui monti del Pasubio. Il programma verrà illustrato in classe dagli insegnanti accompagnatori. Una enorme gita in montagna, più di 100 studentelli coinvolti e un numero imprecisato di professori. Il capogita venne in classe col programma. Questo professore invasato ci propose 3 percorsi, 2 ferrate di medio livello e una via più facile, ma molto più lunga. un sentiero di roccia scavato sul fianco della montagna dai soldati di 100 anni fa. Si dovranno attraversare molte gallerie create dai soliti soldati di 100 anni fa. Sulla carta si vede segnato il lungo serpentone che sale fino al rifugio. Le altre due vie invece sono dritte, corte e dirette. Mi guardo col compagno di banco. Ah, queste due non fanno per noi. Noi sappiamo solo pulire il carburatore del ciao e vestire da fighetti per fare colpo sulle ragazze. È aprile, si consiglia vestiario pesante, ma noi che ne sappiamo di montagna? Siamo attrezzati di jeans e scarpe da ginnastica. Tutti porteranno una misera felpa di emergenza. Da giovane ero un ragazzo pacifico, anche se non troppo pauroso. Gli autobus si separano in prossimità del monte, il nostro va per conto suo, la nostra base è in un posto diverso rispetto a quella dei coraggiosi. Il piazzale di terra e sassi è molto grande, ci siamo solo noi. Bene, abbiamo anche la montagna riservata per quel giorno, che fortuna. Mettiamo in spalla gli zainetti carichi di ogni leccornia preparata dalle mamme, panini, dolci, bibite gasate. Mancano giusto le uova sode e potremmo essere pronti per il picnic di Pasquetta. Ci incamminiamo sulla strada sterrata che affronta il bosco. In ordine sparso, si va a passeggio. Magnifico. Guidano la colonna un insegnante di disegno e un vecchio tecnico di laboratorio. Dietro di loro la masnada strepita e schiamazza. Ci inoltriamo nel bosco, sempre proseguendo sulla larga strada bianca. Qualche tornante zigzaga fra gli alberi e in un tempo apparentemente breve arriviamo al campo base, all'inizio della nostra via. La camminata fra gli alberi finisce in una grande piazzola. Ora alberi non ce ne sono più e davanti a noi si inerpica il sentiero roccioso delle gallerie. Gli adulti responsabili guardano il cielo semicoperto, qualche nuvola si muove veloce, un commento, un mugugno, ma niente di preoccupante. Bene, si parte. Il prof e il vecchio si mettono davanti e io mi aggrego al gruppo di testa, mentre dietro si allunga la processione di una trentina di ragazzi. Il panorama è splendido, la salita dolce e sarà una vera passeggiata. Le voci e le risate rimbombano nelle gallerie. È un'emozione nuova per tutti infilarsi in quei grandi buchi. My brother, where do you intend to go tonight? I heard that you missed your connecting flight to the Blue Ridge Mountain over near Tennessee. You're ever welcome with me anytime you like. Let's drive to the countryside, leave behind some green-eyed lookalikes, so no one gets worried, no. Mano a mano che saliamo il freddo aumenta e insieme adesso si incontrano nuvole basse che non vediamo come nebbia, da prima banchi poi uniforme, lattiginosa e grigia. A questo punto non si ride più. Riusciamo a vedere a pochi metri davanti e dietro. Con chi parli se non vedi nessuno? Dentro alle gallerie ora piove, gocce cadono dalla volta e ci colpiscono a tradimento. Facciamo una curva. Troviamo macchie bianche sul sentiero e neve ghiacciata, brutto segno. Qualche ragazzo vestito di scuro si intravede in lontananza dietro di me. Il biancore ci avvolge, siamo tutti fantasmi che cercano altri fantasmi. Ancora una breve salita per ritrovare i capi gita davanti all'ingresso di una galleria. Un metro di neve ne copre una parte. Una consultazione rapida, decidiamo di comune accordo di proseguire. Forse è solo un caso isolato. Scavalchiamo la montagnola, ci infiliamo nell'apertura piegando la testa. Non si vede niente all'interno. La neve impedisce alla luce di entrare. Fortunatamente qualcuno ha una torcia o un accendino. All'altro capo del tunnel la situazione è identica. Usciamo a fatica e proseguiamo sul sentiero esposto. Da una parte ho una parete di roccia. Dall'altra un precipizio di cui si vede a malapena il bordo a causa della nebbia. Un corvo sbuca all'improvviso dal nulla, mi passa sulla testa e gracchia, dicono che non sia di buon auspicio. Per tutto il tratto di sentiero la neve ha creato una parete obliqua che lo copre del tutto. Non c'è modo di camminare dritti. A me viene da piangere, ma sono anche arrabbiato e vedo qualche traccia del passaggio di altri prima di me. Allora come un granchio avanzo di sbieco, piantando le mani e conficcando le punte delle scarpe nella neve gelata. Dietro di me l'abisso. Se scivolo, addio. Resisto con la forza della disperazione. Faccio abbastanza presto e mi metto in salvo. Guardo indietro. Tutta la zona è un'unica tela biancastra. Comincio a sentire le voci. È una gita molto numerosa, centinaia di persone, solo due guide, ed è stata un'esperienza terribile, molto paurosa e angosciante. Gli schiamazzi di un'ora prima sono divenuti lamenti e piagnistei. Sembrano richieste di aiuto o richiami. Forse qualcuno è precipitato. Non li vedo, purtroppo, non posso tornare indietro, devo chiamare gli altri. La colonna è sfilacciata, il gruppo compatto è diventato un biscione di qualche centinaio di metri. Ognuno affronta i pericoli praticamente da solo. Le guide vanno avanti ad esplorare senza preoccuparsi dei disgraziati che si trascinano nel ghiaccio. L'ennesima svolta e poi un'altra galleria. Trovo gli accompagnatori con un paio di ragazzi, stanno discutendo. Questa volta il muro di neve sale fino in alto e una larga fessura nera è quello che rimane dell'entrata. Il professore capo chiede un volontario, uno magrolino, che salga alla riva bianca per verificare quanta luce abbiamo per passare. Qualcuno sale, ma non ci sono buone notizie. Ci passa forse un cane. In verità questa è una buona notizia. Siamo costretti a tornare indietro. La testa della colonna ritorna sui suoi passi recuperando i ragazzi mano a mano che si scende. È tutto più facile ora, già sofferto. Ho l'impressione che gli ultimi non abbiano neanche visto la parete ghiacciata, tanto erano indietro. Nessuno parla. A metà strada si fa una sosta. Ricominciano le risate, le prese in giro. I zaini intanto sono ancora pieni. Mi pare che non tutti però ce l'abbiano ancora. Passiamo l'ultimo tunnel, ma l'oscurità non termina. Sta arrivando la sera. Raggiungiamo la piazzola di partenza e scendiamo veloci per la strada ghiaiosa, immergendoci nel bosco. Ci fermiamo davanti ad una cascatella che esce da una roccia. Ci dissetiamo di acqua gelida e decidiamo sul da farsi. È tardi e c'è ancora strada. Se proseguiamo sulla strada serrata, arriveremo a notte inoltrata, perciò l'insegnante più incosciente di noi propone di andare dentro il bosco e giù, dritti, per tagliare i tornanti. Detto fatto, zompiamo fra gli alberi, all'inizio piano, con prudenza, poi sempre più forte, salti e corse a perdere le gambe. È divertente, come un branco di bestie scendiamo a valle. Il sottobosco è un acquitrino e strati di foglie nascondono pozze e ruscelli. La corsa esaltante si trasforma in una gara ad ostacoli e ogni tanto il terreno cede e si finisce in acqua. Ne usciamo tutti più o meno bagnati. Riusciamo a ridere, qualcuno è ruzzolato nella palta. Ritroviamo il piazzale dell'autobus malgrado il buio. Gli altri hanno finito da un pezzo, sono rientrati e ci hanno abbandonati. Non si parla durante il viaggio, si dorme. Non si parla nemmeno il giorno dopo, solo una domanda. Ragazzi, com'è andata a voi? Ferrata stupenda, tempo buono e al rifugio grande festa. Vi abbiamo aspettato un bel po' e poi siamo scesi. A noi è andata diversamente. E ancora oggi mi chiedo come nessuno ci abbia lasciato la pelle. Non è in montagna, non è sul Pasubio, Gianluca, nella foto che ci ha mandato, ma e che trovate ovviamente sul nostro sito, ma è al mare. Sembra il parapetto di una nave, in realtà credo sia il parapetto di una passerella sul mare, di quelle che si infilano sul mare. È inverno, lui c'ha su un parca di quelli col pelo siberiano, c'è un tiepido sole e azzarderò, secondo me è un pontile o un molo, chiamatelo, o una passeggiata in Versiglia, Viareggio, Forte dei Marmi. Pronto Gianluca? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Beh, insomma, non molto bene. Col paraocchi bene, ok. Col paraocchi in che senso? Sì, non guardando diritto ci chiudiamo col paraocchi e allora le cose vanno bene. Ah, ok. Un periodaccio. Ok, ho capito. È una metafora per dire che è un periodaccio. Quindi sì, cioè, non ti chiedo altro, Gianluca, però ti chiedo se mi confermi dove sei in questa foto che ci hai mandato. Lì sì, hai indovinato. Sei... Camaiore, Versilia. Ah, Camaiore. La Versilia, sì. Spiegato, si vede dall'onda lunga e dal fondale molto basso. Sei lì perché hai casa, famiglia, amici o semplicemente per caso? Ci vado in vacanza, mi piace molto, d'inverno ed estate. Gianluca, tu invece esattamente di dove sei? Io sono di Castelfranco. Castelfranco Veneto, certo. Sì, sì. E ti trovavi sul Pasubio invece, tra l'altro ammetto la mia ignoranza, ho scoperto solo attraverso la sua storia che il Pasubio è proprio un massiccio calcareo. Io ero convinto fossero invece roba granito, dolomitico quasi. E invece no, è un pezzo particolare di montagna tra la provincia di Vicenza e di Trento. Giusto, più o meno? Penso di sì, io non sono più stato da quella volta. Ok, perfetto. Patrizia, fine, basta, io ho chiuso con il Pasubio. Hai chiuso con la montagna o con il Pasubio? Ho chiuso con il Pasubio, veramente. Senti, ci ricordi qualcosa del professore, di quell'invasato che vi ha portato a rischiare la vita quasi? Quello era un personaggio, tra l'altro si era appena sposato, e arrivava in classe in condizioni pietose, e come arrivava in classe così ci ha portato in montagna in quelle condizioni là, scusami, un personaggio molto strano. Ma arrivava in condizioni pietose per quale motivo esattamente? Ho fatto la luna di miele a casa. Ok, per quel motivo lì, sì, perfetto. Sì, sì. E nello stesso periodo siamo andati su, quindi sul Pasubio. Non l'hai più sentito lui, quindi? No, non abbiamo notizie. No, meglio di no, sì, infatti, se l'avessimo ritrovato. Gianluca, invece, insomma, un po' si percepisce dal tuo racconto, ma tu hai mai avuto veramente paura? Anche ripensandoci, è stata chiaramente una cosa azzardata oppure... Sì, è veramente molto paurosa, sì. A rischio della vita, una pazzia assoluta. Una pazzia. Gianluca, invece, ne ha parlato. Invece tenendo il paraocchi, mi dici più o meno cosa è successo in questi anni, che cosa hai studiato o non hai studiato, che lavoro hai fatto, che lavoro fai? Sì, io lavoro nel settore cosmesi, oli essenziali e prodotti curativi, in questo senso qua. Sì, ho fatto questa strada. Ma nel senso che li produci o li vendi? Li inventiamo. Ah. E poi li vendete a grandi case di cosmetiche oppure li vendete direttamente al dettaglio? Un po' di tutto. Mi dici la cosa più assurda che fate di cosmetico? È un po' tutto particolare, insomma. Dimmene una. Cosmesi con le piante, insomma, non c'è qualcosa di strano, è tutto, comunque sono prodotti eccellenti e quindi... Vabbè, su questo non avevamo dubbi, però io voglio un nome, capito? Voglio una roba tecnica. No, non ce la facciamo. Non ce la può fare. Gianluca, dove ti trovi? Sei sul ciglio di una strada, giusto, adesso? Più o meno, sì. Ok, sì. Mi sto muovendo, sto andando verso il lavoro. Va bene. Senti, ti ho chiesto del lavoro, non ti ho chiesto, diciamo, della vita sentimentale, perché è lì che teniamo il paraocchi, giusto? Lo teniamo su tutti i fronti. Va bene, perfetto. Allora, andiamo dritti, speriamo non ci sia un muro. Guarda, io mi ricordo però una frase di un pilota che diceva: nei momenti di difficoltà io non rallento, io accelero. Vedi tu cosa fare, Gianluca. Farò così. Grazie ancora, in bocca al lupo. Saluti. Ciao, a presto. Ciao. E alla fine, nonostante il paraocchi, dalla storia di Gianluca ho capito che, primo, il Pasubio è un massiccio calcareo situato al confine tra le province di Vicenza e di Trento. Secondo, i professori invasati non sono mai da seguire. Terzo, quando non sai più che cosa c'è davanti a te, tornare indietro può sempre essere un'ottima idea. Quarto, se hai paura, un po' di nubi e un po' di buio sono un cocktail insopportabile. Soprattutto quinto, chi non è tipo da montagna, è meglio che la montagna continui a guardarla da lontano. 349-238-6666, c'è pochissimo tempo. La strada delle Gallerie 52 è molto famosa, ma per i novellini non va bene in aprile. Altre ancora, Sicilia, gita sull'Etna in agosto partendo dal mare, attrezzatura assente, calzari improbabili, zoccoli e infradito, gran magliette, che sarà mai? Un freddo bestia, un terreno infernale che tagliava i piedi, che sgusciavano fuori dalle incerte calzature. Che brutta immagine è quella del piede, che sguscia fuori dagli zoccoli e dall'infradito, tagliandoti tra l'alluce e l'altro dito del piede, che non mi ricordo come si chiama. Grazie a Pietro Lacorte, grazie a Miriam Lucchetti, grazie a Tiziano Bonini, ma grazie soprattutto a Gianluca. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Sono Marinella, vivo a Caserta. La storia di domani è la mia e parla di dolci ricordi. Questa è la mia storia e io sono qui.